Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. È stata approvata dalla Camera la legge elettorale, Renzi ringrazia deputati e deputate e scrive politica 1, disfattismo 0, ma restano le perplessità di un pezzo del PD. I 5 Stelle parlano di schifezza orrenda. Intanto il Consiglio dei Ministri si riunisce per i provvedimenti economici. L'ipotesi è di un taglio dell'IRPEF, incertezza se il via libera arriverà oggi stesso e resta naturalmente il nodo delle coperture. Ucraina, il G7 e l'Europa preparano un documento contro la Russia, non annettete la Crimea, sabotato nella notte l'aeroporto di Sebastopoli. L'ex ministro della giustizia, Anna Maria Cancellieri, indagata nella vicenda delle telefonate con i Ligresti, l'accusa, false comunicazioni ai PM, mentre era guardasigilli. Bergoglio, un anno dopo, domani si celebrano i 12 mesi dall'elezione di Papa Francesco, tra le sfide il nodo dei divorziati e risposati e quello degli abusi sessuali. Masterchef, dubbi sulle scommesse, ci sarebbero state anomalie nelle puntate sul concorrente che poi ha vinto. Una buona giornata da Simone Spezia e bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti che se volete potete commentare al 349-238-6666 e come sempre per commenti, critiche e se volete e ritenete necessario anche complimenti, effettogiorno@radio24.it. Iniziamo naturalmente dalla legge elettorale che ha passato il vaglio della Camera, non senza mal di pancia soprattutto nel Partito Democratico. Elisabetta Fiorito, ciao, buongiorno. Sì, proprio così Simone, con 365 sì, 156 no e 40 astenuti, l'Italicum ottiene il primo sì dalla Camera dei Deputati, adesso la riforma del sistema di voto passa al Senato, ma è una vittoria amara per il PD. Subito dopo l'approvazione arriva il commento di Matteo Renzi: grazie alle deputate e deputati, dice il Premier, hanno dimostrato che possiamo davvero cambiare l'Italia. Politica 1, disfattismo 0. Il tweet segue l'intervista polemica di questa mattina a Repubblica, dove il Premier accusa la minoranza del partito: hanno provato a farmi fuori ma non ci sono riusciti, in questi giorni non si è discusso di donne, si è cercato un'operazione politica per dire che non controllavo il PD, ma sulle quote di genere non tutto è perso e le donne del PD aspettano il passaggio al Senato, no però alle strumentalizzazioni. Sentiamo Rosa Calipari. E il vulnus è nella legge elettorale il fatto che non c'è di fatto sancita la norma antidiscriminatoria, però io non vorrei e non voglio che le donne, non solo in questo momento sono state praticamente fatte fuori con quel voto parlamentare, ma vorrei tanto che non venissero strumentalizzate in termini di riduzione del tema della parità di genere e dell'antidiscriminazione come un tema invece correntizio. Questo sarebbe veramente il peggio. Esulta Forza Italia, l'Italicum è passato grazie a noi. Sentiamo Renata Polverini. Di questa legge elettorale c'è bisogno e quindi l'avremmo votata. Dopodiché non ci dimentichiamo che il Senato ancora esiste, non è stato abolito. Ci sarà quindi un passaggio parlamentare che rischia di essere ancora più importante di questo, visto i numeri che sostengono Renzi. Se non c'era la convinzione di Forza Italia, Renzi non solo non avrebbe e non sarebbe in grado di fare le riforme istituzionali che hanno bisogno di una maggioranza qualificata, ma non è in grado nemmeno di fare una legge ordinaria come quella elettorale. No da parte del Movimento 5 Stelle, Roberto Fico. No duro e puro, perché questo è il porcellum del porcellum, la legge elettorale, lo dico senza mezzi termini, più schifosa che il paese abbia mai avuto, è totalmente incostituzionale ed è frutto di un rapporto d'amore tra Berlusconi e Renzi compiuto al largo del Nazareno. Ricordiamo Simone quindi i voti, sì da parte di PD, Forza Italia e Nuovo Centrodestra, no di SEL, Movimento 5 Stelle, astenuti Scelta Civica e Popolari per l'Italia, all'appello mancano solo 24 voti, ma sono molte le assenze giustificate. Per il momento qui da Montecitorio è tutto, a te Simone. E grazie alla nostra Elisabetta Fiorito, di questo torneremo a parlare più avanti nel corso di Effetto Giorno per capire innanzitutto come funziona questo Italicum, per come è uscito dalla Camera, e poi sentiremo il commento di Roberto Giachetti, deputato del Partito Democratico. Intanto ne parliamo con Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Stefano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Simone. Allora, un mercoledì da leoni è stato definito, no? L'approvazione dei ritalicum da una parte e poi questo Consiglio dei Ministri che dovrebbe, come dire, dare un po' il segno di questo governo, almeno il segno iniziale. Sì, c'è un nesso indiretto, ma c'è un nesso fra le due cose, perché la legge approvata alla Camera, per quanto possa essere discutibile nel merito, è comunque un fatto politico rilevante. Il governo è riuscito a centrare questo obiettivo, sia pure soltanto in un ramo del Parlamento ancora, e si lega questo alle decisioni del pomeriggio che dovranno dare il segno e la qualità, direi anche, del governo Renzi. Se davvero stasera potremo commentare delle cifre notevoli, sostenute però da fatti precisi, quindi dalle famose coperture, potremmo dire che la giornata di oggi ha segnato un passaggio importante da una fase, diciamo, un po' di stagnazione a una fase in cui la politica torna a essere dinamica. Però ci sono molti però. Uno riguarda appunto la qualità stessa di questa riforma elettorale, ma questa è una discussione che si svilupperà a parte, e l'altro riguarda la capacità del governo di realizzare veramente queste riforme economiche che ha promesso, a cominciare da stasera. Su questo ci sono ancora molti dubbi, spetta al Presidente del Consiglio dissiparli. Grazie Stefano Folli, e noi veniamo proprio alle questioni economiche, che poi sono quelle forse veramente più attese. Anche queste torneremo a commentarle nel corso di Effetto Giorno. Intanto facciamo un punto di quello che è emerso in queste ore, anche con l'intervista di Matteo Renzi al Sole 24 Ore. Vincenzo Miglietta, eccoci. Sì, buongiorno Simone. Pre-consiglio dei ministri in corso per limare i provvedimenti che arriveranno sul tavolo del governo alle 16. Taglio del cuneo fiscale, ma non solo, anche Jobs Act, il piano casa e l'edilizia scolastica. Sul primo punto resta l'incertezza sullo strumento legislativo che sarà scelto. Difficilmente infatti oggi il Consiglio dei Ministri opterà per un decreto, ma sulle tasse l'esecutivo dovrebbe prendere tempo arrivando a dare il via libera solo alle linee guida. Resta comunque l'obiettivo di Palazzo Chigi di far trovare già a fine aprile 80-100 euro in più per i redditi più bassi, quelli fino a 15.000 euro. A far rallentare il governo vi sarebbe un problema di coperture e quelle individuate non avrebbero le caratteristiche strutturali volute da Bruxelles. Intervento maggiore dunque sull'IRPEF attraverso la leva delle detrazioni, da vedere se esteso anche agli autonomi e alle pensioni. Poco o nulla invece sull'IRAP per le aziende, si punterebbe però su semplificazioni ed incentivi alle assunzioni. Utilizzo del decreto per il piano casa supportato da 1,6 miliardi di euro di interventi, un provvedimento questo che si muove su alcuni cardini principali: agevolare gli affitti, facilitare l'acquisto e stimolare l'edilizia sociale. Niente decreto invece per intervenire sul fronte del lavoro e degli ammortizzatori sociali, ma un disegno di legge delega. È tutto, linea allo studio. Le coperture dunque, le maledette coperture, sentiamo il punto e quali sono i dubbi. Le coperture per le misure che verranno annunciate oggi ci sono, ne è convinto Matteo Renzi, che tira dritto nonostante le resistenze dei tecnici del Ministero dell'Economia e qualche dubbio da parte del Colle. I soldi li ho, fino a 20 miliardi, non mi faccio fermare dai burocrati, assicura il Premier oggi in un colloquio con il Sole 24 Ore. Gran parte delle risorse necessarie arriveranno dalla spending review, 7 miliardi, spiega Renzi. Altri 3 miliardi dovrebbero arrivare invece dalla riduzione della spesa sugli interessi del debito pubblico, che è legata al buon andamento dello spread. Palazzo Chigi conta poi di ottenere 2 miliardi dall'operazione sul rientro dei capitali e 1,6 miliardi dalla maggiore IVA, che deriverà dal pagamento di tutti i debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese. 6,4 miliardi, aggiunge poi Renzi, potrebbero invece arrivare facendo salire il rapporto deficit-PIL dal 2,6 al 3%, soglia massima consentita dall'Europa, un intervento questo che però preoccupa il Quirinale e soprattutto non è visto di buon occhio da Bruxelles. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Questo è il quadro dalla nostra politica, sulla quale più avanti torneremo, e dalla nostra politica economica. E però adesso noi vogliamo andare all'estero e andare precisamente in Ucraina, dove naturalmente la tensione continua a restare alta, soprattutto in Crimea. È attesa a minuti una dichiarazione del G7 dell'Europa, che sostanzialmente si schiererà contro la Russia e dirà non annettete la Crimea. C'è l'inviata del Sole 24 Ore, Antonella Scott, che si trova a Simferopoli. Buongiorno Antonella. Buongiorno. Che tra l'altro non sa nemmeno quando riuscirà a partire, no Antonella, è così? Sì, purtroppo è così, la Crimea è sempre più isolata, ora che le autorità hanno annullato tutti i voli all'aeroporto di Simferopoli, con l'eccezione di quelli diretti in Russia, quindi in realtà un modo per uscire c'è, basta passare da Mosca. E lo hanno fatto, come ha detto il vice premier secessionista Rustam Temirgalev, per evitare l'arrivo di provocatori nella penisola, dove appunto, come sapete, domenica si terrà il referendum sull'annessione alla Russia. Tra l'altro sta diventando difficile anche arrivare in treno, perché le vendite dei biglietti sono spesso vengono sospese, e ci sono queste forze di autodifesa che alla stazione aspettano, pretendono di controllare i bagagli, perché dicono, sempre appunto per questioni di sicurezza, vogliono verificare che non arrivino provocatori con delle armi. Ascolta Antonella, secondo te quanto c'è una possibilità che dopo il referendum per l'indipendenza ci sia una vera e propria annessione alla Russia, o sarà un'annessione di fatto? Una delle ipotesi che sembra potrebbe realizzarsi è quella di una situazione un po' come l'Ossetia, che alla fine si è proclamata indipendente, però poi è soltanto la Russia che ha riconosciuto la sua indipendenza. Potrebbe essere, diciamo, come una forma di compromesso perché anche per gli ucraini una cosa è accettare che la Crimea si stacchi e si unisca alla Russia, una cosa è che porti all'estremo l'autonomia che in qualche modo ha comunque sempre avuto. Quindi questa potrebbe essere un modo per rendere meno esplosiva la scelta di domenica. Tra l'altro c'è da segnalare che proprio questa mattina il presidente ucraino ad interim Turchinov ha detto che l'Ucraina non invierà il suo esercito in Crimea per impedire la secessione. Spiega che c'è un'offensiva militare in Crimea lascerebbe scoperti i confini orientali dell'Ucraina, quindi in qualche modo fa capire che non combatteranno, che Kiev in qualche modo si è già rassegnata a perdere la Crimea, quindi perlomeno non dovrebbe esserci un bagno di sangue. Grazie ad Antonella Scott per questa sua corrispondenza, e noi veniamo a parlare di Turchia invece, perché oltre 150 persone sono state arrestate ieri sera nelle manifestazioni che sono scattate in una decina di città turche per protestare contro la morte di Berkin Elvan, 15enne da 9 mesi in coma dopo essere stato gravemente ferito dalla polizia durante le proteste di Gezi Park in giugno. Questo è quello che riferisce la stampa di Ankara, che quindi parla di 150 persone arrestate. Ci interessa, con Alberto Negri del Sole 24 Ore, che saluto, buongiorno Alberto. Buongiorno a voi. Fare un punto proprio sulla Turchia, dove tra l'altro anche la situazione economica sta diventando sempre più difficile. La lira turca continua a cadere e oggi tra l'altro c'è stata l'inversione dei rendimenti, insomma quello scenario pericoloso al quale abbiamo assistito anche in Italia, per cui i rendimenti dei titoli di Stato a breve termine hanno superato quelli dei rendimenti dei titoli di Stato a lungo termine, che sono un segnale teoricamente di un default vicino. Vorrei fare un punto con te, Alberto. Beh, dal punto di vista economico la Turchia ormai è sotto pressione dall'inverno scorso, quando è scoppiato lo scandalo che ha coinvolto il governo, le dimissioni di 3 ministri, Erdogan nel mirino con le intercettazioni telefoniche che rivelano quali siano i legami tra Erdogan, il figlio, e gruppi di uomini di affari che in questi anni hanno prosperato con la KP al potere, ricordiamolo, ormai da 11 anni, dal 2002. Autore di un grande decollo economico della Turchia, in realtà il primo ministro ha imboccato una svolta autoritaria dopo le proteste di Gezi Park l'anno scorso, che avevano già in qualche modo preso nell'obiettivo, nel mirino, i mercati turchi. La lira ha cominciato a scendere l'anno scorso, poi ha subito grossi colpi anche durante l'inverno, fino a perdere il 10-15% del valore. Perché c'è stata questa inversione di cui tu facevi prima, a cui tu facevi prima riferimento, dei bond a breve termine che hanno un rendimento superiore a quelli a lungo termine? Perché si sono in scadenza decine di miliardi di dollari di bond in mano alle imprese. Quindi ci sono imprese fortemente indebitate in scadenza nei prossimi 6 mesi, un anno, che potrebbero in qualche modo mettere in tensione i mercati. Ma quello che mette in tensione davvero la Turchia oggi sono le proteste di piazza. Oggi ci sono i funerali di questo ragazzo Berkin Elvan, che hanno riempito le piazze non solo a Istanbul ma in tutto il paese. Un ragazzo di 15 anni che era andato in coma dopo gli scontri di Gezi Park dell'anno scorso, e Erdogan sta perdendo molto della sua presa sul paese, questo a 20 giorni da quelle cruciali elezioni amministrative che ci diranno che strada imboccherà al futuro la Turchia. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. È stata approvata dalla Camera la legge elettorale. Renzi ringrazia deputati e deputate e scrive politica 1, disfattismo 0. Ma restano le perplessità di un pezzo del PD. Letta e Civati erano di fatto assenti ingiustificati alla Camera. Intanto il Consiglio dei Ministri si riunisce per i provvedimenti economici. C'è un'ipotesi di taglio dell'IRPEF, ma incertezza se il via libera arriverà oggi stesso. Resta un nodo di coperture. Ucraina, il G7 e l'Europa preparano un documento contro la Russia. Doveva arrivare alle 12.30, è stato rinviato alle 14. L'ex ministro della giustizia Anna Maria Cancelliere è indagata nella vicenda delle telefonate con i Ligresti. L'accusa: false comunicazioni ai PM mentre era guardasigilli. Ed è proprio da qua che ripartiamo. Le telefonate tra l'ex ministro della giustizia Anna Maria Cancelliere e Antonio Ligresti sono finite in un fascicolo della Procura di Roma che ipotizza il reato di false dichiarazioni a PM. A non convincere le spiegazioni fornite da Cancellieri circa i contatti telefonici intercorsi tra lei e il fratello di Salvatore Ligresti, arrestato assieme con le figlie Giulia e Ionella nell'ambito dell'indagine su Fonsai avviata dalla Procura di Torino. La Cancellieri precisò che si trattava di un amico di famiglia e che comunque lei si era limitata a rispondere a una sua telefonata. Falso. Secondo quanto emergerebbe dai tabulati telefonici, infatti, sarebbe stata l'ex guardasigilli a chiamare Ligresti e non il contrario. Non vera sarebbe anche la spiegazione circa un ulteriore contatto tra i due risalente al 19 agosto scorso. Cancelliere avrebbe lasciato intendere che si era trattato di uno scambio di SMS, mentre agli atti risulterebbe una conversazione durata diversi minuti. Cancelliere è stata sentita pochi giorni fa e in quell'occasione, in quanto indagata, è stata accompagnata dal suo difensore, l'avvocato Fausto Coppi, che oggi precisa: nei confronti della mia cliente è stata già chiesta l'archiviazione. Sì, ma la decisione se archiviare o meno la posizione dell'ex ministro adesso spetta al giudice per le indagini preliminari. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E noi ritorniamo ai provvedimenti economici che il governo sta per varare. Saluto Massimo Vivoli, vicepresidente vicario di Confesercenti. Buongiorno e bentornato. Buongiorno, ai nostri microfoni. Mi sembra che non siate particolarmente rassicurati da quello che si legge in giro in queste ore, perché da quel che abbiamo visto è un taglio dell'IRPEF, ma un taglio dell'IRPEF che riguarda solamente noi lavoratori dipendenti, insomma, mi ci metto dentro. Ma guardi, noi avevamo atteso che fosse definita questa scelta qui, scelta che se avevamo detto che ci sarebbe piaciuta se era inclusiva di tutti i lavoratori dipendenti. E quindi come dire siete ancora in attesa, insomma, aspettate. Siamo ancora in attesa, anche perché sappiamo che la pressione fiscale sulle piccole imprese oggi è diventata esorbitante, cioè stanno chiudendo le imprese, stanno chiudendo in decine e decine di migliaia e stanno creando tra l'altro disoccupazione, c'è grande preoccupazione con un calo forte dei consumi, che è d'accordo nella scelta se però include tutti. Ha l'impressione, Vivoli, che il mondo politico, in realtà non è da oggi, stia un po' dimenticando il mondo degli autonomi, nel quale non metto solamente voi ma anche per esempio i lavoratori del cosiddetto terziario avanzato, insomma le partite IVA che lavorano come consulenti, tanto per dire? Ma guardi, le piccole e medie imprese sono una grandissima potenzialità, tra l'altro, nel nostro paese, rappresentano circa il 68% del fatturato del paese col 52% di posti di lavoro. Non tenere in considerazione, in seria considerazione, questo mondo economico qui, sicuramente riteniamo che non sia una cosa condivisibile. Noi chiediamo da tempo la revisione per quanto riguarda la pressione fiscale, per un credito tra l'altro accessibile, perché anche questo è un problema che hanno le imprese, e meno burocrazia, perché se effettivamente non verranno attuate queste riforme strutturali qui, il paese lo riprenderà e non creerà occupazione. Grazie a Massimo Vivoli, vicepresidente vicario di Confesercenti. Vedremo che cosa succederà da questo lato. Altra categoria in agitazione, non tecnicamente, però agitata, è quella dei bancari, perché il piano d'Italia annunciato da Unicredit ha messo in allarme i sindacati di settore. Questa mattina anche Monte dei Paschi ha presentato i conti, sensibile diminuzione dei costi dovuta soprattutto alla riduzione del personale. Mauro Morelli, segretario nazionale della FABI, al microfono di Valeria De Rosa. Questo piano presentato da Unicredit è un fulmine a ciel sereno. Non ci aspettavamo un ritorno ancora una volta breve, i discorsi sull'occupazione, contrazione dell'occupazione come risparmio di costi e basta. Crediamo che questa soluzione non rilanci assolutamente il gruppo. Poi la dichiarazione stessa che le agenzie, intese come strumento di presenza sul territorio, sono troppo costose e quindi si propende sempre di più a una banca virtuale, ci preoccupa molto. MPS ha comunicato i propri dati al mercato, c'è una sensibile diminuzione dei costi, anche qui sostanzialmente dovuta al taglio del personale. Ma le intenzioni delle aziende è abbastanza chiaro, ed appunto non è che si inventano niente di nuovo l'una con l'altra. La tendenza è sempre quella di più di spingere su un sistema tecnologico con banche che non rappresentino più un punto di riferimento per il territorio e lo sviluppo del paese, ma che siano soltanto puri semplici strumenti di consulenza con sistemi di vendita. A chi ci chiede via SMS, se si danno più soldi ai lavoratori, ci sono più consumi, automaticamente lavorano di più le imprese, diciamo che il meccanismo non è immediato e una visione meccanicistica dell'economia è sempre sbagliata. A chi ci chiede cosa ha votato la Lega sulla legge elettorale, la Lega ha votato no. Questo per completezza di informazione. Veniamo al nostro viaggio, Passione Sud, viaggio che abbiamo deciso di fare nelle zone d'Italia che stanno soffrendo la crisi ancor più del resto del paese. Viaggio nelle principali città del mezzogiorno. Oggi, almeno questa settimana, restiamo a Napoli. Il momento più difficile, Bruno Zarzaca ormai lo ha imparato, è quando piove. È allora che il suo sforzo per portare turisti nella città di Spartacus rischia di scolorirsi come le guide degli ultimi visitatori. I custodi all'1:30 non erano disponibili perché si avvicinava il cambio di turno. Alla fine questi turisti non sono riusciti a visitare il tempietto. Una domenica mattina si presenta un distinto signore anziano giapponese. I custodi non avevano intenzione di accompagnare. C'avevano voglia, pioveva, il signore poteva parlare solo in inglese. Era il professore di archeologia dell'Università di Tokyo, venuto dal Giappone per visitare il Mitreo di Santa Maria Capovetere, la coppa di Nestore ad Ischia e la tomba di Virgilio. Ma ai paradossi si è ormai abituato questo imprenditore, arrivato col marchio Amico Bio dopo Napoli e Londra, anche in questo parco archeologico che staccava meno biglietti del Museo del Bottone. A lui il comune di Santa Maria Capovetere ha contestato l'agibilità di un edificio da loro stessi collaudato e solo con un escamotage riesce a non essere abusivo nel suo ristorante a Napoli, dove lotta contro i lanciatori di rifiuti nelle mura greche. E contro il degrado, ma delle periferie, ha voluto lottare Paolo Scudieri, AD di Adler, aprendo le sue eccellenze campane in un'area di raffinerie dismesse e crisi dilagante. Allargare geograficamente la vivibilità con un interscambio culturale tra Napoli centro, provincia e il porto. Fino a 10 anni fa New York aveva dei quartieri degradati. Cogliere le best practice del mondo e portarle qui, dove abbiamo tanta potenzialità in più. Terra del buono e non solo dei fuochi. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. È proprio di Terra dei Fuochi che vogliamo parlare. Abbiamo sentito due personaggi che sicuramente Gennarino Masiello, che è presidente di Coldiretti Campania, conosce. Buongiorno. Buongiorno. Però non è di loro che vogliamo parlare dei dati che sono stati diffusi ieri dal Ministero. Nella cosiddetta Terra dei Fuochi, della quale tanto ci siamo occupati, anche qua ad effetto a giorno, le aree sospette sono solo il 2%, poco più di 9 km quadrati di terreni agricoli, contro il 98% di terreni nei 57 comuni della provincia di Napoli e Caserta che non sono a rischio. Masiello, vi aspettavate questi dati? Ma li immaginavamo e infatti eravamo premurosi che questa task force messa in campo dallo Stato tirasse fuori questi dati e questi elementi che evidentemente sono rassicuranti da una parte, perché come lei spiegava solo il 2% del territorio di questi 57 comuni è in peso sospetto e solo 64 ettari sono agricoli, quindi evidentemente è un dato che rassicurante non solo per il mondo delle imprese ma soprattutto anche per la società e per i consumatori, e mi auguro che questi dati, questi elementi diventino anche fattore di competitività. Credo che la Campania sia ormai la regione più controllata nel paese e che è riuscita anche a definire quali sono i termini del problema. Adesso si tratta di affrontarli. I dati riguardano i terreni agricoli. Per quanto riguarda i terreni non agricoli, vi aspettate qualcosa di peggio, pur dal vostro osservatorio, che è naturalmente relativo proprio all'agricoltura? No, ormai quelli erano censiti. Erano censiti e i dati evidentemente erano anche conosciuti. Non si conosceva il distinguo tra quelli che erano agricoli e quelli extra-agricoli. Il fatto che quelli agricoli sono così limitati è un dato evidentemente rassicurante, e su questo bisogna lavorare. Bisogna lavorare sicuramente da una parte a mettere in campo la bonifica di questi suoli, di questi territori, e quindi evitare che questo fenomeno rimanga così nel nostro territorio inaffrontato, fatemi utilizzare questo termine. E dall'altra, su questi 64 ettari, che però saranno oggetto anche di indagini dirette effettuate sui terreni, ci sia l'opportunità di avere la massima definizione di quelle che potranno essere le attività da mettere in campo. In caso di impedimento di produzione, è chiaro che lì dove gli imprenditori hanno subito un danno e sono vittime di questo danno, ci aspettiamo anche un impegno forte nei risarcimenti, nel ristoro, e per evitare che altre imprese in questo paese possano chiudere. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Tra poco andremo a sentire di nuovo un paio di opinioni sulla legge elettorale, ma prima vogliamo parlarvi del Papa. Domani è un anno dall'elezione. Sarà il sinodo di ottobre ad indicare la soluzione da adottare per accogliere e non condannare, come ha più volte ripetuto il Papa, chi ha fallito nel proprio matrimonio. Dalle risposte del questionario voluto dal pontefice in tutte le diocesi del mondo, indicazioni chiare sono già arrivate. Ma alla fine l'ultima parola su come affrontare la ferita dei divorziati risposati spetterà a Francesco. C'è chi pensa alla possibilità di una benedizione per le seconde nozze, proposta condivisa anche da Ernesto Emanuele dell'Associazione Famiglie Separate Cristiane. Alle seconde nozze non è possibile arrivare, il Vangelo parla molto chiaro. Ci può essere una benedizione dopo. Le persone che dicono: non mi sono preparato bene al primo matrimonio perché ero giovane, aspettavo un bambino, adesso mi preparo, c'è tempo, non c'è più da fare le nozze, si fa un percorso penitenziale in un centro specializzato, ma ci sono già quelli per i preti in crisi, insomma. Un'altra grossa sfida resta quella della lotta agli abusi sessuali, un tema molto sentito soprattutto negli Stati Uniti, come racconta il vaticanista John Allen. Ha annunciato la creazione di questa nuova commissione pontificia sui casi di abusi, e questa notizia è stata ricevuta in modo positivo nell'opinione americana, ma ovviamente gli americani e la gente altrove, secondo me, non sta aspettando solamente una manovra burocratica, ma sta aspettando un impegno serio e decisivo. Quindi secondo me questo è tra le sfide più importanti. Roberto Giachetti, deputato del Partito Democratico, vicepresidente della Camera, buongiorno e bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno a lei e grazie dell'invito. E Gino Scaccio, ordinario di diritto costituzionale alla Luis Guido Carli di Roma, benvenuto. Buongiorno. Allora, professor Scaccio, parto da lei. Che le pare di questi talicum? Ma guardi, bisogna considerare sempre una legge elettorale all'interno del contesto politico nel quale si colloca. La Corte Costituzionale, con la sentenza numero 1 del 2014, ha detto che ci possono essere dei meccanismi distorsivi della perfetta rappresentanza dei voti in seggi, della perfetta traduzione dei voti in seggi, se questo serve a garantire la stabilità dell'esecutivo e la semplificazione del processo decisionale. In questo senso, sicuramente la fondamentale finalità di questa legge è quella di assicurare una stabilità di governo. Il problema è di valutare se questi meccanismi distorsivi sono troppo forti rispetto all'esigenza di garantire comunque una rappresentatività delle Camere. A me pare che non tanto singolarmente considerati i vari meccanismi distorsivi, ma è la somma di tutti i meccanismi distorsivi che può creare dei problemi. Che cosa intendo? C'è una distorsione che deriva dalle clausole di sbarramento, perché viene precluso l'accesso a forze politiche che hanno una quota significativa di consensi nel Paese, ma questo è stato riconosciuto in generale a livello anche dalle corti europee, anche dalla Corte Costituzionale tedesca. La clausola di sbarramento in sé è legittima se non si colloca su soglie molto alte. E la nostra soglia, già sotto questo profilo, qualche problema lo crea, perché la media dei paesi europei è tra il 4 e il 5. La nostra arriva all'8 per le liste non coalizzate, i partiti non coalizzati, le liste, e al 12 per le coalizioni. Gli unici che stanno al di fuori del 5 sono la Russia, che è all'8, e la Turchia, che sta al 10, ma... E questo sulla soglia di sbarramento. Per quanto riguarda il premio di maggioranza, un altro meccanismo distorsivo è il premio di maggioranza. Ora, che il 37 sia una soglia ragionevole o non ragionevole, io ho provato a sviluppare con l'aiuto di un matematico anche un algoritmo che dovrebbe dimostrare che questa soglia sta proprio al limite della ragionevolezza. Però voglio dire, questo è... Bisogna tener conto del professore, fatto. Le voglio chiedere molto brevemente, e poi arriveremo a Giachetti. Secondo lei, se qualcuno facesse ricorso per l'Italicum così com'è adesso, rischierebbe una nuova bocciatura dalla Corte Costituzionale? A mio giudizio sì, perché ripeto, non tanto i tre meccanismi considerati isolatamente, ma la loro somma. Ci abbiamo detto clausola di sbarramento, premio di maggioranza e poi collegi piccoli, che creano uno sbarramento implicito, non espresso ma comunque operante. Se noi mettiamo insieme questi tre elementi, potremmo avere un effetto paradossale, cioè che un partito che ha il 25% si coalizza con tre partitelli che raggiungono tutti e tre il 4, nessuno di questi tre partiti ha rappresentanza parlamentare perché non ha superato la soglia di sbarramento, e questo partito centrale della coalizione con il 25 si trova al 52. Allora è evidente che... Certo che è un paradosso. No, capisco benissimo. Capisco benissimo. Professore, la fermo perché poi i nostri tempi sono piuttosto compatti purtroppo in questa trasmissione, e voglio far rispondere Giachetti a questo punto. Giachetti, prego. Ecco, mi prendete in un momento di contestazione in aula, quindi sentirete un eccessivo sottofondo. Chi protesta? Protestano la Lega e il Movimento 5 Stelle perché vogliono parlare sulla chiusura della discussione generale sul decreto missioni. Uno a favore, uno contro. Il decreto missioni. Allora, ci dica, ha sentito l'osservazione del professor Scaccia? Guardi, mi faccia dire una cosa preliminarmente. Innanzitutto io ovviamente non sono un costituzionalista, quindi il mio pensiero ovviamente è sicuramente meno valido di chi si occupa di queste questioni ed è uno studioso di questo. Ovviamente la cosa di carattere generale vorrei dirle è che, se è andato per curiosità a riguardarmi il dibattito parlamentare delle precedenti leggi elettorali, sia del Porcellum ma anche del Mattarellum, e devo dire che il tema della incostituzionalità della legge elettorale è un tema ricorrente, un'accusa che è sempre stata fatta, in alcuni casi si è rivelata reale come nel caso del Porcellum, in altri casi come il Mattarellum non si è mai posto il problema. Ora, ovviamente io penso, e ho letto io le cose, ma sicuramente la mia visuale è meno precisa di quella del professore, mi sembra che noi stiamo complessivamente dentro le maglie previste dalla sentenza della Corte Costituzionale. Sono anche convinto che se l'approccio nei confronti della riforma elettorale è un approccio meno di scontro e più collaborativo, io sono convinto che si può fare un passo migliorativo al Senato, ovviamente mantenendo il principio che si deve fare con l'accordo di tutti. Il punto reale, vorrei dire a lei e ai ascoltatori, è che però noi ci siamo sentiti anche in momenti diversi. Sono anni che, mettendo o pretendendo di fare la legge migliore, che è sempre quella che noi pensiamo essere la migliore, di fatto alla fine non si fa nessuna legge, perché è chiaro che una legge che deve essere fatta, io penso giustamente, nel modo più largo possibile, inevitabilmente è una legge di mediazione, è una legge che deve prevedere un passo indietro di qualcuno e un passo avanti di un altro e così via, nel senso non si può pensare che la migliore legge è la nostra, quindi quella per grazia divina diventa legge dello Stato, perché non funziona così. Sì. Allora, Giachetti, io la ringrazio perché tra l'altro la sentiamo piuttosto male. Ringrazio anche il professor Scaccia, che tra l'altro più o meno dice sostanzialmente la stessa cosa, cioè dice la legge elettorale è inevitabilmente un punto di mediazione. Ringrazio tutti e due, vi auguro buona giornata e buon lavoro. Noi andiamo a chiudere in bellezza la trasmissione parlando di MasterChef e di scommesse. Strade in diretta. Ancora code in direzione Genova dopo un incidente avvenuto in mattinata sulla 10 Genova Ventimiglia tra la Complanare di Savona e Celle Ligure. Nell'incidente, lo ricordiamo, si è ribaltato un camion all'interno della galleria pecorile. C'è un incidente anche sulla 13 Bologna-Padova, attenzione tra Occhiobello e Rovigo Sud verso Padova. Nell'incidente è coinvolto anche un mezzo pesante. Si segnala che sul tratto emiliano dell'Autosole è chiuso per lavori lo svincolo di Piacenza Nord sia in entrata che in uscita in direzione di Milano. La riapertura è prevista per venerdì. È tutto, torniamo tra mezz'ora. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. E chiudiamo in bellezza, si diceva, MasterChef e il caso scommesse. Solo uno dimostrerà di avere abbastanza talento e determinazione per vincere il titolo di terzo MasterChef italiano. Sono passati appena 6 giorni, era il 6 marzo, da quando Carlo Cracco ha urlato il nome di Federico Ferrero quale vincitore della terza edizione di MasterChef Italia. Una vittoria non senza sorprese del torinese sul concorrente che i più si aspettavano vincesse, Almo Bibolotti. E ora, come scrive l'Espresso, si addensano nuovi sospetti sulla regolarità del finale di gara dopo la denuncia della casa di scommesse Bet 1128. Troppe scommesse su Federico, flussi anomali con importi molto elevati e tutti nello stesso momento. Si rafforza così l'ipotesi che fosse già stato tutto deciso prima della proclamazione del vincitore in diretta. Da Bet 1128 fanno sapere che le scommesse sono arrivate tutte insieme alle 2 del pomeriggio del 6 marzo. Fino a quel momento era Almo il favorito. Poi si è invertita completamente la tendenza con importi molto consistenti puntati su Federico. È la prima volta che succede una cosa simile, dicono ancora i bookmaker di Bet 1128, e tra l'altro le scommesse incriminate arrivavano dal nord Italia, precisamente dalla zona di Milano, la città dove si trovano gli studi in cui si svolge il programma. Sulla rete erano già emersi dubbi sull'esito della finale, alimentati anche da notizie riportate dall'Huffington Post di una collaborazione passata tra Federico e uno degli sponsor della trasmissione. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È il momento di America 24. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. We are looking at it very carefully. We CIA are working with FBI and TSA and others. Our Malaysian counterparts are doing everything they can to try to put together the pieces here. But e John Brennan, avete ascoltato il capo della CIA ieri mattina, ha fatto delle dichiarazioni che hanno aggiunto altre ombre alle tante che già si sono addensate attorno al caso misterioso della sparizione del volo della Malaysian Airlines, volo numero 370, che da Kuala Lumpur doveva recarsi a Pechino. Brennan ha detto: non possiamo escludere la pista del terrorismo, la perseguiremo per capire se in effetti tutto quello di misterioso che c'è attorno a questo volo ha delle radici collegabili a un attentato. The Chinese over 10 years or 15 years relocating a billion people from the peasant farms into cities. Il primo a sollevare in modo molto chiaro, esplicito, diretto l'ipotesi di un attentato è stato Rupert Murdoch, il grande editore americano, australiano, britannico, che aveva scritto un Twitter molto inusuale. Aveva detto: bene, dopo quello che è successo con questo volo, i cinesi si renderanno conto che dovranno lavorare con gli americani per contenere l'offensiva terroristica jihadista. Era un riferimento assolutamente esplicito che la sparizione di questo volo fosse dovuta a un attacco terroristico e che la radice di questo attacco avesse delle matrici estremiste islamiche. E molti hanno alzato, come si dice, il sopracciglio, perché se Murdoch dice una cosa simile, evidentemente perché ha parlato con delle fonti molto informate e sappiamo che i suoi contatti sono ad altissimo livello. Perché questo collegamento, perché questa insinuazione da parte di Murdoch? Beh, perché la Cina ha dei problemi nelle sue regioni nord-occidentali, in particolare nello Xinjiang, dove c'è la popolazione degli Uiguri, che sono dei musulmani. L'etnia islamica in Cina supera i 90 milioni di persone e proprio gli Uiguri, che sono circa una decina di milioni, hanno organizzato un forte movimento separatista. L'idea dunque è che, visto che la maggioranza dei passeggeri erano cinesi, il volo era diretto a Pechino e che questo volo potesse diventare un obiettivo terroristico di un certo interesse. Vi ripeto, sottolineo, sono assolutamente congetture, ma nel momento in cui il capo della CIA solleva la questione, è bene cominciare ad affrontarla nel suo contesto d'insieme. More mysterious information just coming into CNN from the Malaysian Air Force. The Malaysian Air Force says. La notizia di ieri, che ha aggiunto ulteriori incertezze, ulteriore mistero, è che il volo, in realtà, invece di essere caduto, precipitato, sparito a sud del Vietnam, in realtà in quel punto ha fatto marcia indietro, un'inversione a U, e ha viaggiato, navigato per un'altra ora. Il punto in cui ha virato è stato il punto in cui ha perso i contatti con la torre di controllo. Ma dopodiché si vede chiaramente nelle mappe, ha fatto un'inversione, ha passato la Malesia e poi ha perso qualunque contatto ed è precipitato, vi ripeto, un'ora dopo, nello stretto della Malacca, vicino all'isola Pulau Perak. Ecco, i misteri sono troppi. Questo volo, che a un certo punto misteriosamente cambia direzione, fa un'inversione a U, sparisce da qualunque controllo, è stato dirottato, c'è stato un problema tecnico, si sono persi completamente i controlli di comunicazione o persino i controlli dei comandi. C'è poi il mistero dei due passeggeri a bordo, che avevano dei passaporti falsi, un passaporto italiano, un passaporto austriaco, e abbiamo poi scoperto che sono due iraniani, Puri Nur Mohammadi, di 19 anni, Delavar Seymomad Erza, di 29 anni. Entrambi erano diretti in Europa. La spiegazione data dalla madre di Puri, del ragazzo più giovane, era che lui cercava di raggiungerla in Germania, non aveva un passaporto per poter uscire, è riuscito a impossessarti di questo passaporto, ma dall'Iran va fino alla Malesia. Insomma, ci sono talmente tante incognite in quello che è già un mistero, perché la sparizione di un aereo che sta volando ad alta quota è un fatto rarissimo, è avvenuto una ventina di volte, inclusi attentati negli ultimi 15-20 anni. Ecco, quando poi si aggiungono questi elementi di mistero, la preoccupazione è lecita. Ripeto, per ora un gruppo di autorità esclude che la pista terroristica sia davvero solida. Sembra che i due giovani a bordo col passaporto falso in realtà avessero obiettivi totalmente diversi, quelli cioè di lasciare l'Iran e andare in Europa. Certo che questo messaggio di Murdoch, in cui dice Stati Uniti e Cina dovrebbero dialogare molto più da vicino, è un messaggio importante ed è un messaggio che viene recepito, credo, molto bene dalla Cina. Barack Obama ha parlato con il leader cinese anche per fare un riferimento all'Ucraina. La Cina vuole ridimensionare questo movimento separatista e dunque Obama cerca di approfittare di questa occasione per stringere un'alleanza con Pechino in funzione antirussa, in funzione antiseparatista per la Crimea. Insomma, la situazione è davvero molto fluida. Proprio oggi a Washington il presidente americano, che ha parlato con mezzo mondo, ha parlato con il leader del Kazakistan, con i leader europei, con leader asiatici, incontrerà Arseniy Yatsenyuk, il primo ministro dell'Ucraina, per cercare di trovare una strategia comune e risolvere nel modo più diplomatico, più pacifico possibile la crisi con la Russia. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Danielle Bradbury, che l'anno scorso a soli 17 anni è diventata la più giovane cantante a vincere il talent show The Voice, sta girando per le scuole d'America in partnership con Disney e sta promuovendo l'educazione musicale. Di Danielle Bradbury, Heart of Dixie. It's got a way of showing you what you're all about. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24. Grazie a Paolo Corleoni, regia, Laura Faggini in assistenza e redazione, tutta la redazione di Radio 24 come sempre. Ci risentiamo tra un attimo col GR. Effetto giorno torna domani alle 13:00.